E adesso volevo passare appunto la parola alla dottoressa De Ceglia, che era la signora che avete visto anche giù al banchetto, che vendeva i prodotti realizzati a San Vittore, e che ci racconterà del mondo del carcere visto dalla prospettiva di chi ci lavora e di una persona che davvero fa tanto, perché come vi dicevo prima, ci sono tante persone, non è come si crede, no? Che in carcere non si fa nulla. Ci sono carceri nei quali non si fa nulla, forse, ma non è il suo, tant'è vero che viene sgridata, perché è una di quelle persone che fa anche troppo e rende molte cose facili e lavorare con persone così è uno stimolo non indifferente, veramente per fare sempre, sempre meglio. Quindi passo la parola. Allora, io lavoro, come ha detto Alessandro, nel carcere di San Vittore dal 2010. Prima sono stata nel carcere di Lodi, dal 2004 appunto fino al 2010. Poi ho chiesto il trasferimento e lavoro ora a San Vittore. San Vittore è una realtà molto difficile, al centro di Milano, proprio al centro, facilmente raggiungibile dal Duomo. E ci sono circa 1600 detenuti. C'è anche un reparto femminile, oltre che un reparto separato, l'ICAM, dove ci sono donne con dei bambini. Sì, è stato proprio creato proprio per la custodia attenuata dell'ICAM, proprio per permettere ai bambini di non vivere con la mamma e con la detenzione. È una struttura, una casa, ecco, quindi le donne spesso e volentieri purtroppo evadono dall'ICAM. Mi occupo del terzo reparto, dove ci sono detenuti con problematiche di tossicodipendenza. Siamo circa 10 educatori, quindi diciamo il numero è bassissimo come personale educativo, anche di polizia penitenziaria. Ripeto, i detenuti sono 1600 e la capienza è 800-900, quindi le celle sono invivibili, spazi molto piccoli, ci sono anche reparti dove le docce sono in comune. E hanno degli orari detenuti proprio da rispettare per poter fare le docce. Spesso mancano generi di prima necessità, quindi sapone, carta igienica, shampoo. Il turnover è elevato, si hanno anche presenze giornaliere di 60 detenuti, 60 arresti. Il tempo di permanenza è spesso breve, perché spesso vengono mandati in arresti domiciliari oppure scarcerati. Però per ogni detenuto che entra, si attiva tutto un servizio a San Vittore, quindi nuovo giunto vengono date praticamente i generi di prima necessità, c'è cioè l'immatricolazione, il detenuto viene praticamente schedato e poi subito va praticamente seguito dal medico, entro le 24 ore, poi dallo psicologo, quindi c'è un elevato, cioè gli operatori siamo molto attenti al servizio di accoglienza. Quindi detenuti che sono per la prima volta in carcere, ci sono molti ragazzi giovani e molti con problematiche psicologiche di tossicodipendenza. Ecco, poi c'è anche un reparto dove ci sono persone malate, il centro clinico, persone anche anziane che vengono praticamente arrestate, quindi sono lì un tempo lungo qui di permanenza. Come ho detto, ci sono molti imputati, detenuti che ancora devono fare i processi, dopodiché vengono trasferiti in altri istituti, quindi c'è il carcere di Opera dove ci sono detenuti con condanne definitive o bollate, più trattamentale, anche lì sono detenuti definitivi. Al terzo reparto, come ho detto, ci sono detenuti con problematiche di tossicodipendenza, io con la mia collega ci dividiamo quattro piani, c'è anche la custodia attenuata che è una precomunità dove i detenuti sono aperti tutto il giorno, dalla mattina fino al pomeriggio, fino alle 18 circa, e fanno proprio attività, quindi vengono praticamente poi allenati a un cammino fuori che sia comunitario. Niente, con la direttrice, perché io come operatore devo essere autorizzata dal direttore, che è la responsabile di tutte le attività trattamentali che si fanno sui detenuti. Quindi abbiamo focalizzato molto l'attenzione nel dare importanza alle attività quindi culturali. C'è una grandissima biblioteca che conta 17.000 volumi dove i detenuti possono accedere e leggere libri. Ci sono anche, diciamo, due detenuti che lavorano in questa biblioteca e quindi con le attività culturali, quindi abbiamo cercato molto di favorire, ecco, il il legame con la città esterna, quindi col volontariato fuori, proprio perché c'è, è una risorsa per il carcere, non serve a nulla, diciamo, alzare i muri che ci sono, già sono alti, innalzarlo e quindi separarlo dalla città, perché poi il detenuto finisce la pena e quindi bisogna proprio facilitare il reinserimento del soggetto poi fuori. E niente, con le attività culturali stiamo vedendo che cioè, moltissimi sono i detenuti che riflettono, che riscoprono diversi doni che hanno. C'è stato un detenuto che quest'anno ha vinto il primo premio a Roma e, proprio per un concorso. Ha fatto un concorso e è stato premiato proprio a Roma, ha vinto 1.000 euro e un PC portatile. Questo detenuto non andava assolutamente d'accordo con i genitori, però poi i 1.000 euro li ha voluti proprio dare al padre, quindi ha riscoperto, diciamo, l'affetto per la famiglia e questo suo dono. Ama molto leggere, ma anche scrivere. Ci sono altri invece che seguono proprio ogni mercoledì, aspettano proprio i volontari del gruppo della meditazione, altri invece che seguono il corso di acquerello. E hanno anche creato una redazione di un giornale, Realtà Nascoste, dove praticamente è un giornale che raccoglie tutte le loro, diciamo, sensazioni, attualità, disegni. Ci sono molti che disegnano, infatti c'è il dipinto che oggi Alessandro ha voluto lasciare qui. Ecco, è proprio un detenuto che l'ha fatto. Diciamo, non è facile fare tutti questi corsi dove, ripeto, un carcere, quindi l'attenzione è proprio la sicurezza, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi volontario che entra è una novità e quindi poi l'amministrazione lo vede, il personale di polizia penitenziaria lo vede come un pericolo. Come un pericolo, purtroppo è ancora così e la mentalità poi ci sono regole molto, molto rigide, molto nel carcere, tra detenuti, tra operatori. E quindi anche come viene visto il mondo esterno. Ora giù si sta anche aprendo un laboratorio di legatoria. Come avete visto, i lavori sono fatti dai detenuti. Sono circa 6 detenuti che vanno giù dalla mattina alla sera. Ci sono quelli anche che hanno altri lavori da fare, quindi fanno dei turni dalle 7 di mattina alle 18. Cercano di portare avanti questo progetto dove credono tantissimo, anche perché poi vedono un futuro fuori. Quindi rimanere in contatto con loro, con i volontari che lo seguono e quindi una possibilità poi quando sono fuori dal carcere di poter lavorare, perché ripeto, il lavoro manca e quindi loro lo vedono proprio come appunto una risorsa maggiore. Niente, se ci sono poi domande. Se avete domande per chiunque di noi, volentieri.